Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Come al solito, un grande grazie ad Edo che vi accompagna fino a qua ed esagera, poi, negli aggettivi. Giulio Caperdoni in vostra compagnia tutti i giorni, fra le 19 e le 20, questa ed eclettica, fra Edo, già nominato, e Marco Garavelli, che arriverà appunto fra un'ora con Hard and Heavy. Non so proprio dove vado, ma proverò a raggiungere il regno se ci riesco, perché mi sento un vero uomo quando infilo l'ago in vena. Poi dico che le cose non sono affatto le stesse quando mi sto godendo la mia pera e mi sento come il figlio di Gesù. E ammetto che non so niente, e ammetto che non so proprio niente. Io ho preso una grande decisione, proverò ad annullare la mia vita, perché quando il sangue comincia a scorrere, quando sale il collo della siringa, quando mi sto avvicinando alla morte, non potete aiutarmi, certo non voi ragazzi, né voi ragazze dolci con le vostre parole dolci. Potete andare tutti a farvi una passeggiata. Ammetto che non so proprio niente, e ammetto che non so proprio niente. Vorrei essere nato 1000 anni fa, vorrei aver navigato per mari oscuri, su un grande veliero, navigare da una terra all'altra. Ah, in abito e cappello da marinaio. Via dalla grande città, dove un uomo non può essere libero dai mali di questa città, e da se stesso, e da quelli attorno a lui. E ammetto che non so proprio niente. E ammetto che non so proprio niente. Eroina, che tu sia la mia morte. Eroina, è mia moglie, è la mia vita, perché un ago nella mia vena porta al centro del mio cervello. E sto meglio che se fossi morto. Perché quando la roba entra in circolo, non me ne frega più niente di voi, tizi e cai di questa città, e di tutti i politici che schiamazzano come pazzi, e di quelli che insultano tutti gli altri, e tutti i morti ammucchiati uno sull'altro. Perché quando la botta comincia ad arrivare, allora non mi importa proprio più nulla. Perché quando l'eroina è nel mio sangue, e il sangue è nella mia testa, ringrazio Dio. Sto meglio che se fossi morto. Ringrazio il tuo Dio che non sono cosciente. Ringrazio Dio che non me ne frega più niente. E ammetto che non so proprio nulla. E ammetto che non so proprio niente. Questa era Heroin di Lou Reed. Yeah. don't you describe yourself, Mr. Dupre? I'm a people person. I'm very personable. I absolutely insist on enjoying life. So task-oriented. Not a workhorse. If you're looking for a Clydesdale, I'm probably not your man. Like, I don't live to work. It's more the other way around. I work to live. Incidentally, what's your policy on Columbus Day? We work. Really? The guy discovered the New World. Afraid to even ask about victory over Japan Day. Profumo di Eclettica. Nella mia testa sono sempre girati due nomi, di due concerti che avrei voluto assolutamente vedere. Il primo purtroppo rimarrà un rammarico, d'altronde l'anagrafe non mi ha permesso di essere presente quando Jimi Hendrix calcava le assi di un palcoscenico. Ma proprio nei giorni scorsi invece ho finalmente soddisfatto quello che era l'altro grande desiderio. E in questo caso penso che gli anni a disposizione purtroppo non è che potessero essere poi molti. Non so per quanto riguarda me, ma per quanto riguarda lui, perlomeno salire su un palco e tenere in mano una bacchetta, visto che è nato nel 1928. L'altro giorno, finalmente, nella cornice di Piazzale Michelangelo a Firenze, ho avuto la possibilità di vedere dal vivo Ennio Morricone. E vi devo confidare un segreto. Erano anni che non mi succedeva. Sto parlando dei brividi. I brividi che si provano quando inizia una canzone, quando questa canzone prende forza. Non so se usare il termine canzone sia adatto nel caso di Ennio Morricone, ma i brividi c'erano ed erano tutti, ed è stato un piacere riprovarli sulla propria pelle. Eclettica in compagnia di Giulio Capperdoni, che si è aperta con gli Stateless, sicuramente uno dei gruppi del momento per quanto riguarda le mie scelte, le mie playlist, e che prosegue con i Marchos. Se vuoi un ultimo bacio in questo sogno che non è la realtà, chiudi gli occhi e pensami forte, ritornerò, ritornerò, ritornerò. Andiamo a festeggiare nel salone e diamo fondo a una bottiglia di whisky. Eccola che passa di nuovo. È là fuori, per le strade, un'altra volta. È di nuovo inginocchiata, amico mio. Ma lo sai che non ti chiederà mai più per favore. Ora guarda, non ci sono lacrime nei suoi occhi. Non l'accetterà da un uomo qualunque. Cosa puoi fare? La vedi che cammina per strada, che guarda tutti i tuoi amici che incontrerà. Faresti meglio a picchiarla. Eccola che passa di nuovo. È di nuovo sbattuta giù a terra. È di nuovo in ginocchio, amico mio. Ma lo sai che non ti chiederà mai più per favore. Ora guarda, non ci sono lacrime nei suoi occhi. Proprio come un uccellino, sai che volerà. Cosa puoi fare? La vedi che cammina per strada, che guarda tutti i tuoi amici che incontrerà. faresti meglio a picchiarla. Ora guarda, non ci sono lacrime nei suoi occhi. Proprio come un uccellino, sai che volerà. Vola, vola via. Ah, guardala camminare per la strada. Guarda tutti i tuoi amici che incontrerà. Griderà e urlerà. Farà il suo lavoro. Ci riuscirà. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ah, lei sta benone, sta proprio bene. Lavorerà. Questo era There She Goes Again di Lou Reed. So don't tell Annie I was here, and if you do, don't just don't tell her that I asked out, you not Neil. To. Out. Okay, I'll just go. Could have been 1, 2, 3, but recently something has happened to me. Everything always came easily, but today I woke up and felt nothing. Could I be finally finding out that there's absolutely nothing worth shouting about? Faced with the choice of just losing my voice, I'd rather shut up and say nothing. On the outside, we have to stick together. On the downside, you just get in the way. I see gray skies, and I feel a little better. I see gray skies ahead, and it's fine by me. Oh, all the right people seem squeaky clean. Well, all the right people mean nothing to me. Cheating and creeping just to stay on track. They'll offer one hand, they'll put a knife in your back. You notice that something is terribly wrong when they offer the world, then they turn and they're gone. Then you from the start, you could never. will stay on the outside. In Eclettica ci siamo appena ascoltati Wiry, che è ritornato con una nuova prova dalla quale abbiamo estratto il pezzo dal titolo Stay on the Outside, ma è soprattutto sul brano precedente che voglio spendere qualche parola in più, perché sono al primo passaggio all'interno di Eclettica e immagino che non sarà l'ultimo. Poi il numero dei passaggi, le volte in cui un brano, un gruppo, un artista ricompare nelle playlist dipende sia da me ma anche da voi, che potete influenzare il tutto su giulio@radiorockfm.com, mail oppure myspace.com/eclettica nel caso vogliate scrivere in modo che anche tutti gli altri lo vedano. The Love Tones è il nome della band che ci siamo ascoltati, con il pezzo dal titolo Wintertime in Hollywood. Vengono da Sydney e da Melbourne in Australia, mezzo e mezzo, insomma un po' da una città e un po' dall'altra, e sono usciti con un disco dal titolo Axiom per la TP Records, un disco che non è il loro debutto era stato nel 2002 grazie alla Bump Records, ma è con questo disco che sono usciti fuori dai confini australiani, e con questo loro terzo disco che sono usciti fuori dai confini australiani e sono comparsi anche all'interno delle playlist di Eclettica, che chiude la sua prima parte di quest'oggi con la tromba di Beirut che dà una mano ai suoi amici di New York City di nome Get Him, Eat Him. It's a familiar sound. don't you turn around. We're leaving intact, we're gonna face this down and never look back, so don't take that tack. We'll take them up, come along. We were right, they were wrong. We are brave, we are strong, and we're taking them on. Say, there's a will, there's a way. If we fight, if we stay, we can still win the day.